Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. A ottobre, dopo il referendum, faremo una bella riunione, una bella assemblea e diremo: questa missione è compiuta. Perché ricordiamoci che noi abbiamo rotto per evitare che il paese andasse nel baratro nel 2013, quando tutto poteva precipitare, per arrivare all'obiettivo, che sono queste riforme e la ripresa economica. Una volta arrivati lì, dovremo fare un bel tagliando. Avete capito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, anche Alfano guarda avanti, perché sembra che queste amministrative siano lì. Praticamente dietro la porta, però appunto si pensa molto al referendum costituzionale di ottobre, e anche lo stesso Alfano dice: poi dopo quel referendum faremo un tagliando del governo, capiremo insomma se l'alleanza funziona sempre, bisogna rivedere un po' le cose. E essendo venerdì, ultimo giorno della settimana, per effetto notte naturalmente ci sarà come al solito un bilancio della politica della settimana. Anche questa settimana è stata ricchissima, quindi sono moltissimi gli argomenti, vediamo cosa riusciamo a farci stare poi nel commento con l'ospite che ci sarà dopo le 21:15. E poi torneremo naturalmente, anche visto che oggi c'è stata un'altra udienza importante, sul processo a Massimo Bossetti, unico imputato, come ormai sapete, per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasi. Oggi è stato il turno della difesa, hanno detto i suoi difensori che insomma sono tornati sulla questione del DNA, che non è una vera prova in questo caso dal loro punto di vista, che il Bossetti non può essere visto come un assassino, un molestatore sessuale, perché tutto casa, lavoro e famiglia. E pare che Bossetti in aula, parlando appunto gli avvocati dei suoi figli, si sia anche messo a piangere. Cercheremo di capire come è stata questa, quale linea, insomma, quali cose sono state dette nella tesi della difesa, e poi dovrebbe arrivare la sentenza intorno al 1 luglio. Insomma, tantissime cose. Poi ci occuperemo del meteo, probabilmente chi si illudeva che già l'estate fosse ormai avviata dovrà rivedere un po' i propri progetti, le speranze e gli auspici, perché probabilmente domenica, non in tutta Italia, potrebbe ritornare il brutto tempo. Però prima di partire con la sintesi della giornata, come sempre con effetto notte, non perdete mai un istante se volete essere aggiornati su tutto in modo esauriente e poi capire anche i vari argomenti. L'argomento che vi sottopongo questa sera per le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte o attraverso i messaggi WhatsApp al 349-238-6666 è questo: la preoccupazione dei presidi. Perché? Perché arriva il maxi ponte elettorale, siccome si vota il 5 giugno, dal 2 al 7 giugno molti istituti daranno lo stop alle lezioni per fare spazio alle elezioni. Per i presidi questo maxi ponte è semplicemente, dicono, un disastro, perché c'è una legge che prevede che affinché un anno scolastico sia valido ogni studente deve frequentare almeno 200 giorni di scuola. In ogni caso, tanti si chiedono: è il caso di continuare a fare le lezioni nelle scuole? Perché i presidi propongono per esempio come alternative le università, le caserme e persino le parrocchie. E voi come la pensate? Fareste spostare le elezioni, come sono state invece tradizionalmente, non più nelle scuole ma nelle università, nelle caserme e semmai pure nelle parrocchie? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte se preferite scrivere lì. E ora la giornata. Il G7 in Giappone, le priorità sono crescita e risposta globale alla crisi migratoria, così si legge nel comunicato finale. E Obama va a Hiroshima, rende onore a tutti i caduti della Seconda Guerra Mondiale e lancia un appello: basta armi nucleari. Renzi dal G7, l'Italicum non si discute, dice rispondendo alle polemiche di questi giorni, e si consuma uno strappo nella maggioranza sulla prescrizione. Pizzarotti sentito in procura, un colloquio in clima collaborativo, dice il sindaco di Parma, penso di aver chiarito tutti gli aspetti in merito alle domande dei giudici. Marò, domani pomeriggio girone in Italia, sarà accolto dai ministri Gentiloni, Pinotti a Ciampino. Il processo per l'omicidio di Yara Gambirasi, oggi il turno della difesa di Bossetti, la sentenza potrebbe arrivare il 1 luglio. Torino, accolte due stepchild adoption di due coppie di donne. Allarme dagli Stati Uniti, scoperto in una malata un batterio che resiste a tutti gli antibiotici. Ciclismo, Arisul vince Nibali e riapre il Giro d'Italia. Partiamo quindi dal G7, il vertice dei sette grandi del mondo che si è tenuto in Giappone. Tra le priorità si legge nel comunicato finale l'impegno per la crescita da sostenere con ogni mezzo monetario, fiscale e strutturale per scongiurare il fantasma di una nuova crisi economica, e poi la necessità di una risposta globale alla crisi migratoria. Altro argomento a cui è stato dedicato molto spazio anche la Brexit, con i rischi e le possibili conseguenze connessi. Ma soprattutto dal Giappone hanno fatto il giro del mondo le storiche immagini di Hiroshima con Obama, il presidente americano che abbraccia un anziano sopravvissuto all'atomica del 1945. Troviamo insieme il coraggio di diffondere la pace e di realizzare un mondo senza armi nucleari. Questo è il messaggio che Barack Obama ha scritto oggi nel registro del Museo della Pace, durante la storica visita a Hiroshima, dove ha deposto una corona di fiori al cenotafio delle vittime provocate dalla decisione del suo predecessore Truman. 140.000 morti, per lo più civili. Ma l'immagine che passerà alla storia è quella di Obama che oggi sorregge un hibakusha, molto anziano, uno dei sopravvissuti alla bomba del 6 agosto 1945. Quel giorno la morte cadde dal cielo e il mondo cambiò, ha detto Obama. Se un mondo senza armi nucleari non è vicino, responsabilità speciale dei paesi atomici, ha aggiunto, è almeno quella di ridurre il rischio di catastrofi. Obama comunque non si è scusato per non suscitare polemiche nella sua patria e del resto i giapponesi non gliel'hanno chiesto. E non ha annunciato nemmeno nuove iniziative, in quanto ormai presidente uscente. Ma anche i gesti, anche i simboli contano e oggi lo si è capito bene. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Hiroshima. Naturalmente in Giappone al G7 c'era anche il presidente del Consiglio Renzi, che ha parlato di temi interni, dal referendum alle amministrative, polemiche poi per il suo tour nelle città al voto nel giorno in cui 5 Stelle hanno festeggiato il primo compleanno del Restitution Day. Non dà retta alla minoranza Dem il premier Matteo Renzi e continua per la sua strada. Chi gli chiede di cambiare l'Italicum dal Giappone risponde così. Una legge molto semplice che dice che chi vince le elezioni può governare e, attenzione, si elimina il rischio degli inciuci permanenti. La minoranza invece teme che la legge elettorale, insieme con le riforme costituzionali, possa dare troppo potere all'esecutivo. Non solo a Renzi, risponde Roberto Speranza, conosciamo la posizione del premier, ma continueremo a chiedere modifiche all'Italicum perché si eleggerebbe un Parlamento di nominati. C'è poi il fronte amministrative, Renzi cambia passo, decide di sostenere il candidato Dem, Roberto Giachetti, intervenendo in un teatro romano il 1 giugno. Ma per la candidata 5 Stelle Virginia Raggi l'evento è scandaloso. Il presidente del Consiglio deve essere imparziale perché l'ha giurato sulla Costituzione. Lo decideranno i romani se è scandaloso la replica di Giachetti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quinto Restitution Day per il Movimento 5 Stelle, la cifra raccolta dai parlamentari pentastellati con il taglio dei loro stipendi è arrivata a 17,5 milioni di euro, risparmi finiti nel fondo per il microcredito. Nata in sordina 2 anni fa, l'iniziativa ha permesso di finanziare oltre 1.800 piccole imprese, creando 4.500 posti di lavoro, ha sottolineato Di Maio, che ha colto l'occasione per tornare ad attaccare governo e maggioranza. Siamo convinti del fatto che con questo gesto ispireremo il cambiamento. Non abbiamo aspettato una legge per tagliarci gli stipendi, non abbiamo aspettato una riforma costituzionale per tagliarci gli stipendi e tra l'altro se tutti facessero come noi si risparmierebbe una cifra 4 volte più grande della ridicola riforma di Renzi che dice che è la più grande operazione di taglio degli sprechi in Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le amministrative di Radio 24. E oggi è la volta di Bologna. Un candidato sindaco del PD che non piace al Partito Nazionale. Un avversario leghista contrario ai centri sociali nei quali ha lavorato. Bologna è un po' così, laboratorio politico e culturale, cortile dove tutti si conoscono e si incontrano. Il tutto sotto l'occhio vigile materno della alma mater dell'università, il cui rettore incontra privatamente i candidati ma non ne vuole parlare in pubblico. Una città di un rosso sempre più sbiadito, ma dove il centrodestra non riesce nemmeno ad accordarsi al suo interno, come racconta Andrea Cangini, il direttore dello storico quotidiano Il Resto del Carlino. Bologna è senz'altro la città dove il centrodestra si presenta al peggio, tutto sommato. Bologna sa, mi sei mancata un casino. Nella città delle cooperative e di un sindaco ex assessore all'urbanistica e alla casa, il tema delle infrastrutture e della mobilità monopolizza il dibattito politico. Grande assente, l'economia e poi le piccole e medie imprese, l'attenzione per il commercio, con tante serrande che si abbassano. Sarà forse che Bologna è una città ancora molto ricca? È sicuramente una città ricca, ma è una città che si è molto impoverita rispetto agli anni pre-crisi. Comunque la caratteristica di questa campagna elettorale è che non si parla di nulla. Federico Mascagni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna. Scuola, vi dicevo che arriva il maxi ponte elettorale dal 2 al 7 giugno, stop in molti istituti alle lezioni per dare spazio, vi dicevo, alle elezioni. Per i presidi questo maxi ponte è semplicemente un disastro, molti in ogni caso si chiedono se abbia ancora senso far votare nelle scuole. Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, lo sentiamo al microfono di Adriana Fracchia. C'è una legge che prevede che perché un anno scolastico di uno studente sia valido deve aver frequentato questo studente almeno 200 giorni di scuola. In questo modo rischiamo di non adempiere ad un obbligo di legge. Noi da anni proponiamo soluzioni alternative che sono, utilizziamo soprattutto le università, le caserme, perché no, se sono disponibili le parrocchie, utilizziamo altri luoghi pubblici senza interrompere il loro servizio, ma soprattutto rispettiamo il diritto all'istruzione degli studenti che è sancito a parole dalla Costituzione, viene spesso infranto da chi dovrebbe far rispettare la stessa Costituzione. E tra le altre cose il governo è alle prese, ecco, su questo scusate vi chiedevo che cosa ne pensate di possibili alternative che presentano i presidi per il voto, quindi le università, le caserme, le parrocchie, vedo già qualche messaggio, qualche anche proposta da parte vostra, 349-238-6666 il numero per i messaggi e per i WhatsApp, oppure scrivete sulla pagina Facebook di Effetto Notte che è sempre lì per voi giorno e notte. Dicevo, tra le altre cose il governo è alle prese anche con la spaccatura nella maggioranza per la prescrizione. Il punto è che la rottura è sulle cosiddette maggioranze trasversali, così le ha definite l'onorevole Schifani, una maggioranza nella quale, nel caso specifico, entrerebbe anche il Movimento 5 Stelle, con il quale si era raggiunto l'accordo sullo stop alla prescrizione dopo il primo grado. Ma Area Popolare non ci sta e ha invitato i due relatori del PD, Casson e Cucca, a ritirare gli emendamenti. Area Popolare, ha ricordato Schifani, si è astenuta nel voto finale alla Camera perché non ha condiviso il contenuto, facendo affidamento sul l'impegno del ministro Orlando di rivedere alcuni punti che dilaterebbero eccessivamente i termini di prescrizione del reato. Nella discussione interviene anche il ministro Alfano, che di Schifani è compagno di partito. Non sosteniamo che si debba lasciare la prescrizione così com'è. Noi diciamo c'è un tempo che possiamo anche allungare perché lo Stato eserciti la propria pretesa punitiva. Quel tempo non può essere eterno. A raffreddare gli animi ci prova il presidente dei senatori del PD Zanda. Ho parlato con Casson e Cucca, mi hanno detto che gli emendamenti presentati sono ipotesi di lavoro, quindi il contenuto sarà oggetto di analisi e confronto. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sul fronte economico adesso i dati e le parole del ministro dell'economia Padoa. Dati sull'economia italiana ancora in chiaroscuro. In diminuzione a maggio, secondo l'Istat, quelli sulla fiducia delle famiglie, con l'indice che si ferma a 112,7 punti da 114,1 del mese precedente. È il livello più basso da agosto dello scorso anno. Per le imprese, invece, l'indice aumenta a 103,4 da 102,7. Più in dettaglio, nella manifattura peggiorano i giudizi sugli ordini, mentre le attese sulla produzione rimangono stabili. Numeri che confermano allora l'incertezza che accompagna anche la prima parte del 2016. Per un'economia che è senza dubbio ripartita, dice il neopresidente di Confindustria Boccia, ma non è in ripresa. Il leader degli industriali torna poi sul tema dei contratti e si dice convinto che il meccanismo virtuoso salario-produttività si possa creare anche in Italia. Vorremmo fare in modo, aggiunge Boccia, che le relazioni industriali diventino un fattore di competitività del paese, quindi il tema delle riforme, il dibattito su chi sta con chi o contro chi non ci appartiene, spiega il presidente di Confindustria, non ragioniamo per colore. Approfondiremo e se saremo convinti appoggeremo le riforme o no in funzione delle idee che ci faremo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La Corte d'Appello di Torino ha accolto due richieste di stepchild adoption, cioè dell'adozione all'interno di una coppia dello stesso sesso del figlio biologico dell'altro, in questo caso sono due coppie di donne. I giudici della sezione minorenni con due sentenze distinte hanno dato il via, infatti, il via libera a due coppie di donne per l'adozione dei figli delle rispettive partner. Le due domande, prima di ricevere il parere favorevole anche da parte della Procura Generale, erano state respinte in primo grado. Cioè, ieri abbiamo parlato dei Marò, della decisione della Corte Suprema indiana di dare via libera, insomma, all'ordinanza del Tribunale Internazionale dell'Aia, che aveva detto che anche Girone, l'altro Marò, doveva rientrare, e infatti Girone sta per rientrare, dovrebbe rientrare domani all'aeroporto di Ciampino, accolto dai ministri Paolo Gentiloni e dalla ministra della Difesa Roberta Pinotti. E poi il processo per l'omicidio di Yara Gambirasio, oggi è stato il turno della difesa di Bossetti, la sentenza, vi dicevo, potrebbe arrivare il 1 luglio, poi però ci colleghiamo con chi ha seguito tutte le udienze e il processo e anche per capire come è andata e quali sono le prossime tappe. Questo allarme che arriva dagli Stati Uniti per un batterio per la prima volta è arrivato un superbatterio resistente a qualsiasi tipo di antibiotici. A lanciare l'allarme gli scienziati del Dipartimento della Difesa americano, che hanno individuato la specie di Escherichia coli nelle urine di una donna di 48 anni della Pennsylvania. Il dettaglio più allarmante è che l'agente patogeno in questione, spiega questo rapporto, è resistente persino all'antibiotico di ultima generazione, la colistina, il colistin. La colistina infatti è considerata l'ultima spiaggia degli antibiotici, e se un batterio riesce a sopravvivere anche a questa è impossibile fermarlo. L'allarme è decisamente consistente. Chiusura, lo sport. L'azzurro Vincenzo Nibali ha vinto per distacco la 19ª tappa del Giro d'Italia da Pinerolo a Risul di 162 km, una delle frazioni più dure della Corsa Rosa, con la cima Coppi a 2744 metri del Colle dell'Agnello. Il colombiano invece Esteban Chaves è la nuova maglia rosa. Prima di lasciarci, brevemente qualche vostro messaggio a proposito dell'alternativa che propongono i presidi di non fare questo maxi ponte dal 2 al 7 giugno per le elezioni, si vota il 5 giugno per le comunali, dicono allora cerchiamo di spostarle altrove, nelle università, persino nelle parrocchie oltre che nelle caserme. Cosa ne pensate? Stefano dice: il voto deve essere fatto nei municipi abilitati con carta d'identità e codice fiscale, chiunque ovunque voglia. Comunque oggi 7 giorni in meno di questa scuola fanno più bene che male agli studenti. Dice Stefano, sicuramente gli studenti penso siano contenti. Simone: dipende dalle scuole, ormai c'è autonomia in queste cose, mio figlio non ha tutti questi giorni di ponte, comunque è inutile protestare ora, occorre farlo all'inizio anno nei modi e nelle sedi adeguate. Fra l'altro volevo anche accogliere questo messaggio di Andrea Antonioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, lo potete vedere, è diciamo sulla spalla, sul lato sinistro, nella colonnina sinistra. Dice: ciao Roberta, ti seguiamo con stima, eccetera eccetera, la legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto è stata approvata, sono molti coloro che però stanno contando i giorni che li separano dal coronamento del loro sogno di essere una coppia riconosciuta, di uscire dalla clandestinità eccetera. Ci siamo però resi conto che mancano informazioni corrette in proposito, e già in questi giorni ci siamo confrontati con notizie distorte e fantasiose. Per questo motivo abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo, siamo due ufficiali d'anagrafe e di stato civile, da anni ci interessiamo dell'evoluzione normativa legata al riconoscimento legale delle coppie e delle famiglie formate dalle persone dello stesso sesso, e mettono un link se volete avere più informazioni su diritti, doveri, in cosa consista la legge sulle unioni civili che è appena stata varata. Potete andare sulla pagina Facebook di Effetto Notte e trovate il link alla loro pagina, e anche sulla pagina Effetto Notte per scrivere le vostre opinioni a proposito delle alternative, dei luoghi dove si potrebbe votare. 349-238-6666, altrimenti il numero per WhatsApp, SMS. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme dopo pochissimo. Roberta Giordano sempre con voi. Vedevo fra i vari messaggi questo: le scuole non possono cambiare il calendario per recuperare i giorni di chiusura, chiede un ascoltatore. Forse è un po' complesso, vi dicevo che c'è questo allarme dei presidi italiani sul fatto che c'è il maxi ponte per votare, visto che nelle scuole che si vota, quindi un maxi ponte dal 2 al 7 giugno, e dicono per essere valido un anno scolastico per ogni studente deve durare almeno 200 giorni, e questo mette in crisi la possibilità insomma di ottemperare a questo dovere, a questo obbligo di legge, e propongono di votare magari spostando il luogo nelle università, nelle caserme, anziché nelle scuole. Cosa ne pensate? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti. Obama, Hiroshima, dialogo per un mondo senza armi nucleari, l'abbraccio poi con un sopravvissuto. Abe, il presidente giapponese, dice riconciliazione con gli Stati Uniti. E poi G7, le priorità al vertice dei sette grandi sono la crescita e una risposta globale alla migrazione, e anche preoccupa lo spettro della Brexit e la possibilità che la Gran Bretagna possa uscire dall'Unione Europea. Migranti, nuovo naufragio, oltre 10 corpi recuperati, la piccola Fevro, la piccola bambina nera che è arrivata senza mamma perché è morta, è a Palermo in un centro per neonati e sta commuovendo buona parte del mondo. Scontro per quanto riguarda la nostra politica sulla prescrizione, ira di Alfano per un emendamento. Intanto Renzi dal G7 dice sull'Italicum non si discute, non c'entra con il referendum, non c'entra un possibile scambio tra Italicum e referendum. È un messaggio che manda la sua minoranza soprattutto. Poi girone in Italia, il Marò sarà domani pomeriggio in Italia, ha già lasciato New Delhi. E siamo quindi, come sempre, il venerdì a quest'ora al bilancio della politica della settimana. Cosa ci mettiamo dentro? Tantissime cose, vediamo di cosa poi riusciamo a parlare con l'ospite che tra poco saluterò. Quindi il conto alla rovescia per le amministrative, perché si vota il 5 giugno a proposito del maxi ponte a scuola. Le accuse, più che altro le polemiche, ecco, sul referendum costituzionale di ottobre e da qualche giorno anche sull'Italicum, si è innestata questa polemica anche dell'Italicum sulla questione del referendum. Poi le moderate riaperture di Renzi alla concertazione, al confronto. Sapete che c'è stato un tavolo di confronto tra il ministro Poletti e i sindacati sulle pensioni, possibile flessibilità in uscita, magari un aggiustamento per le minime, ancora bisogna vedere. Comunque poi la buona notizia del rientro in Italia, l'abbiamo appena detto, rientra domani il Marò Girone, però anche questa notizia non è stata esente da polemiche politiche, con addirittura Forza Italia che ha chiesto una commissione d'inchiesta su questa vicenda. Poi negli ultimi giorni e anche nelle ultime ore il dibattito sulla prescrizione. Quindi partirei dal conto alla rovescia per quanto riguarda le amministrative, i sondaggi, e saluto subito Barbara Fiammeri, commentatrice del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera. I sondaggi per quanto riguarda le principali città, insomma, continuano a dare a Roma Virginia Raggi, il Movimento 5 Stelle in testa, a Milano una certa... Non si possono dare i sondaggi. Non possiamo più dare non i sondaggi. Hai ragione, i sondaggi non si possono più dare. E allora parliamo di Roma in particolare, a parte le città più importanti, perché sicuramente è stata quella più vivace, più variegata per quanto riguarda la scelta dei candidati, in particolare per il centrodestra e anche per le alleate. No? Adesso c'è Berlusconi, che magari sentiamo adesso tra poco un passaggio, che dice, dopo aver scelto prima Bertolaso e quindi aver rotto con Fratelli d'Italia e la Lega di Salvini, poi essere passato Marchini e aver segnato ancora di più una distanza con Meloni e Salvini, ha detto però se al ballottaggio dovesse arrivare Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, sostenuta anche dalla Lega, la sosterremo. Sentiamo Berlusconi. Saremo dalla sua parte e voteremo per un partito della destra che è nostro alleato e che sarà nostro alleato in Italia. E questo dice a proposito, no, questo mi sembra che sia l'altro file, quello dove dice che per la leadership sarà l'esponente del partito più forte che governerà, perché ci si continua a chiedere, no, questo dibattito, questo scontro, confronto tra Salvini e Berlusconi, chi a un certo punto, visto che Salvini lo vuole rottamare, chi dovrà essere leader del centrodestra. Sentiamo invece quello su Meloni. Ah, va bene, no, va bene. E invece Berlusconi che parla di Renzi e della bulimia di potere. In questi mesi abbiamo potuto constatare la bulimia di potere che è stata messa in campo da Matteo Renzi, che ha conquistato militarmente tutto il conquistabile, ma non solo, perché non vuole soltanto governare l'ordinaria amministrazione, vuole cambiare addirittura la Costituzione italiana. Insomma, tutti sembrano, Barbara Fiammeri, quasi più proiettati a questo referendum di ottobre, no? Con la polemica interna, soprattutto nel PD, ma non solo. Berlusconi che dice dopo il referendum ci sarà la battaglia per restaurare la democrazia, e Cuperlo anche, che ha detto speravo che Renzi avesse rispettato questa moratoria, questa pausa, insomma, all'interno del PD di polemiche, invece dal G7 ritorna a polemizzare sul referendum. Non c'è uno scambio in corso tra referendum e Italicum, perché la minoranza del PD torna a chiedere di modificare l'Italicum, no? Sì, diciamo che questa tregua non c'è mai stata, nel senso che se le sono date e suonate di santa ragione, e quindi non c'è mai stata nessuna tregua. Di fatto, insomma, se possiamo essere espliciti, mi sembra che la minoranza del PD, e non solo la minoranza del PD, anche le forze di opposizione, attendano il premier al varco, no? Cioè sperano in un inciampo alle amministrative per, come dire, presentargli il conto in vista del referendum. Cioè la battaglia è tutta qui, anche perché Renzi ha detto che qualora non passasse il referendum si dimetterebbe, e quindi chiaramente ha offerto un boccone molto ghiotto a chi si pone in contrapposizione a lui, sia dentro il suo partito che soprattutto fuori, perché comunque la minoranza del PD è una rappresentanza limitata, che però si aggiunge al resto, diciamo, delle opposizioni. È una situazione, insomma, un po' paradossale, perché a pochi giorni da un voto che comunque è importantissimo, ma è importantissimo perché ci sono le principali città italiane al voto. Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli, no? Sì, in questa fase si discute di un altro appuntamento elettorale che ci sarà a ottobre. Però è chiaro che in questa situazione è difficile poi riuscire a entrare nel merito delle questioni, sia per quanto riguarda, diciamo, le amministrative, quindi i programmi, diciamo, dei candidati sindaci, che dovrebbero essere invece il fulcro. Già, la priorità, no? Capire chi votare, priorità, in base sì, ai programmi. E invece si vede che tutto è portato su un piano nazionale e sulla riforma costituzionale. A questo proposito, scusa Barbara, ti faccio sentire anche Alfano di oggi, che cosa dice a proposito. Anche lui guarda in là e parla di tagliando. Sentiamo. A ottobre, dopo il referendum, faremo una bella riunione, una bella assemblea e diremo: questa missione è compiuta. Perché ricordiamoci che noi abbiamo rotto per evitare che il paese andasse nel baratro nel 2013, quando tutto poteva precipitare, per arrivare all'obiettivo, che sono queste riforme e la ripresa economica. Una volta arrivati lì, dovremo fare un bel tagliando. Parla di tagliando, no? Tutti che mettono le mani avanti, tutti che guardano oltre, come se, appunto, come dicevi tu, le amministrative non fossero un appuntamento importante. Sì, diciamo che Renzi ha deciso di giocare questa partita, che è la partita della sua vita, tutto all'attacco, come ha sempre fatto. Quindi di fatto ha posto la sua carriera politica, perché lui ha detto che si ritira, non solo si dimette da Presidente del Consiglio, ma si ritira dalla politica. Sì, così anche Boschi ha detto, no? Sì, qualora dovesse essere sconfitto. È un peccato, mi viene da dire, perché appunto si sottovaluta quello che è il merito, perché indubbiamente poi, se parliamo di questa riforma costituzionale, che ha sicuramente tantissimi limiti, non c'è dubbio però che introduce dei cambiamenti importanti e peraltro, come dire, da sempre richiesti. Cioè, si capisce anche un po' la strumentalizzazione che viene fatta da Renzi da una parte e dall'altra parte da chi è contro Renzi, no? Pensiamo a Berlusconi. Berlusconi, la riforma costituzionale Forza Italia nella prima lettura l'ha approvata sia alla Camera che al Senato. Quindi e non è stata stravolta rispetto alla prima lettura, anzi molte delle cose che chiedevano sia l'opposizione che la minoranza PD sono state introdotte, quindi, diciamo, sono andate un po' incontro a quelle che erano le richieste. Berlusconi ruppe sul capo dello Stato, cioè sulla scelta di Mattarella, sì, come capo dello Stato. Non ruppe perché non gli piaceva, non era d'accordo sulla riforma costituzionale. Ma si sa che in politica, no, si mischiano le carte a seconda dei momenti, delle strategie. Appunto, per questo dicevo, si tralascia il merito, che invece forse dovrebbe essere la cosa più importante. Barbara, ma sul merito, sai che si è infiammata particolarmente, appunto, la polemica, anche perché la ministra Boschi ha mezz'ora dall'annunziata aveva detto i veri partigiani, tirando in mezzo Lampi, i veri partigiani votano sì. Poi Renzi aveva cercato di mediare dicendo no, i veri partigiani possono votare sì e no, e Lampi poi ci ha tenuto a dire noi faremo in ogni modo campagna per il no. Bersani, fra l'altro, è entrato anche lui in questa polemica, esponente di tutto riguardo della minoranza PD, e sentiamo che cosa ha detto. Se andiamo avanti così, io faccio un facile pronostico: fra 4-5 mesi avremo un Senato riformato, ma sulle macerie dell'area democratica e costituzionale, perché questa è una riforma che ha dei tratti anche opinabili, e se quelli del no, quelli che dicono voterò no, o sono disfattisti, o sono gufi, o sono conservatori, o sono vecchi un po' suonati ancorché esimi costituzionalisti, o sono partigiani finti, adesso oggi sono cattivi eredi di Berlinguer e di Ingrao, se si va avanti così noi ci troviamo su un cumulo di macerie. Che ne pensi, Barbara, di questo sfogo di Bersani? Ma cioè, penso che ci siano anche altre ragioni molto più prosaiche. Mi riferisco ai posti in Parlamento che diminuiscono e quindi, come dire, resta una sola Camera e c'è il timore da parte della minoranza PD di essere fatta fuori una volta che poi si faranno le liste elettorali. Quindi ci sono anche appunto delle ragioni che sono un pochino più personali e poi c'è anche un aspetto da sottolineare, cioè questa riforma, il problema del Senato, di come il Senato viene fuori, ovvero saranno dei rappresentanti dei consigli regionali, su come verranno eletti poi appunto bisognerà fare una legge e su questo c'è una grande polemica perché la minoranza PD chiede che la legge venga presentata prima in modo che si sappia come verranno eletti, vorrebbe un'elezione diretta. Però io ricordo che all'inizio la riforma inizialmente presentata dal governo voleva che a sedere in Parlamento fossero i governatori e i sindaci delle principali città. Invece sarebbero adesso i sindaci e i consiglieri regionali, no? Se non sbaglio. Ma sì, l'indicazione arriverebbe appunto dai consigli regionali. E questo perché fu modificato? Perché lì, in quel caso Berlusconi, ma anche la minoranza PD, sosteneva che siccome tutte le regioni erano in mano alla sinistra, se fossero andati i governatori, di fatto ci sarebbe stato un Senato sbilanciato sul PD. Però la minoranza a sua volta sosteneva che i candidati governatore e sindaci sarebbero stati indicati dalla maggioranza del PD o quindi da Renzi e quindi anche loro si sentivano, come dire, a rischio. Questo per ricordare un po' poi come sono anche andate le cose nel corso, perché sì, stiamo parlando di un dibattito che dura da tantissimi mesi, da oltre un anno. Barbara, però poi sarà nostro compito anche soprattutto per il pubblico chiarire poi i termini, no, di queste riforme costituzionali, quindi del referendum, in modo che ognuno si chiarisca. Spero che arriveremo a un punto dove si comincerà a parlare di che cosa del contenuto cosa con un po' di chiarezza, cosa cambia, riforma. Così ognuno sarà libero di votare come crede. Il tempo a questo punto è fuggito, cara Barbara Fiammeri, io intanto ti ringrazio, ti auguro buon fine settimana. Grazie a voi. Ciao, buonasera. Barbara, ciao. E adesso, prima di lasciarci, possibile, dice questo ascoltatore, che la scuola debba finire l'1 di giugno lasciando i genitori l'onere di sistemare figli per 3 mesi e passa? Effettivamente, diciamo, mentre gli studenti probabilmente sono contenti, là dove si farà questo maxi ponte nelle scuole per votare tra il 2 e il 7 giugno, molti genitori, magari una volta, quando le famiglie erano più tradizionali, si poteva anche prendere e partire, o c'era la mamma a casa, che adesso per molti diventa un problema capire dove lasciare i figli. Certo, per i 3 mesi adesso bisognerebbe organizzare, capisco, per il maxi ponte, ma per tutta l'estate forse diventa un po' complicato che ci sia qualche istituzione, qualcuno che organizzi per tenere i figli, o ci sono i campi estivi. Insomma, quello è una questione diversa dal maxi ponte dal 2 al 7 giugno. 349-238-6666 per i vostri messaggi o WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo a momenti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando Effetto Notte, con la giusta anche conduttrice Roberta Giordano sempre con voi. I vostri messaggi che arrivano oltre al vostro ascolto a proposito della proposta dei presidi italiani preoccupati di questo maxi ponte per le elezioni che ci sarà dal 2 al 7 giugno per quanto riguarda le scuole, preoccupati che poi non si ottemperi all'obbligo di legge di fare almeno 200 giorni di scuola per ogni studente, e propongono delle alternative al posto delle scuole di votare per esempio nelle università università, nelle caserme, magari se i preti vogliono nelle parrocchie. Dice Luciano: sarebbe bello votare da casa tramite internet, eviteremo spese inutili e penso che la gente voterebbe più volentieri, magari inserendo un codice personale. Poi invece Domenico dice: il preside che col suo intervento ha proposto sedi alternative alle scuole per il voto si sarà attirato le antipatie degli studenti, da sempre gli studenti gioiscono quando non vanno a scuola. Beh, insomma, hanno il loro ruolo. Del resto Nicoletta scrive: ma come si può proporre di far votare nelle università? Non ci sono in tutte le città e men che meno nei paesi. Se il suggerimento proviene dall'Unione Nazionale Presidi, c'è da preoccuparsi sulla capacità gestionale dei cosiddetti dirigenti scolastici, dice Nicoletta. Beh, comunque insomma non è peregrina questa osservazione, effettivamente le università non ci sono dappertutto, non sono così capillari come le scuole. 349-238-6666 per i vostri messaggi, per i vostri WhatsApp, oppure scrivete sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Prima di passare al prossimo argomento, parleremo dell'udienza che c'è stata oggi ancora per il processo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Vi ricordo le notizie più importanti. Il G7 in Giappone, le priorità sono crescita e risposta globale alla crisi migratoria, così si legge nel comunicato finale del vertice. E Obama va a Hiroshima, rende onore a tutti i caduti della Seconda Guerra Mondiale e lancia un appello: basta armi nucleari. Renzi dal G7, l'Italicum non si discute, dice rispondendo alle polemiche di questi giorni, e si consuma uno strappo nella maggioranza sulla prescrizione. Pizzarotti sentito in procura, un colloquio in clima collaborativo, dice il sindaco di Parma, penso di aver chiarito tutti gli aspetti in merito alle domande dei giudici. Marò, domani pomeriggio Girone è in Italia, sarà accolto dai ministri Gentiloni e Pinotti a Ciampino. Il processo per l'omicidio di Yara Gambirasio, oggi è stato il turno della difesa, ne parleremo tra pochissimo. Torino ha accolte due stepchild adoption di due coppie di donne. Poi allarme dagli Stati Uniti, scoperto in una malata un batterio che resiste a tutti gli antibiotici. Saluto subito Vittorio Attanà, giornalista dell'Eco di Bergamo, che ci sta aggiornando man mano sulle udienze di questo processo a carico di Massimo Bossetti, carpettiere di 45 anni, unico imputato per l'omicidio della 13enne ginnasta Yara Gambirasio. Buonasera Vittorio. Buonasera Roberta, buonasera a tutti. Vittorio dell'Eco di Bergamo. Allora, oggi appunto toccava la difesa, ci siamo lasciati venerdì scorso, che hanno fatto la ringa gli avvocati di parte civile, quindi dell'accusa. Oggi naturalmente la difesa, con una premessa in particolare che ha fatto l'avvocato Salvagni, che abbiamo avuto anche qualche volta qui a Effetto Notte, dicendo che il primo pensiero era per la vittima di questo delitto efferato, terribile, però poi naturalmente ha esposto la sua tesi difensiva per evitare a Bossetti la condanna all'ergastolo che aveva chiesto proprio la settimana scorsa la PM Letizia Ruggeri, no? Vittorio? Sì, sì, esatto Roberta. Oggi è stato il turno della difesa, non è bastata l'udienza di oggi, ce ne sarà un'altra perché gli argomenti sono tanti. Oggi comunque gli avvocati di Bossetti hanno insistito molto sulla figura di questo che hanno definito un normalissimo muratore bergamasco, mentre l'accusa lo ha dipinto come un orco, come un sex offender, come un maniaco. Addirittura la parte civile era arrivata a definire opera di un sadico il delitto di Yara Gambirasio. Oggi invece la difesa ha fatto un ritratto completamente diverso, di un uomo mite, un uomo buono, un uomo affettuoso, un uomo anche remissivo nei rapporti interpersonali, perché con la moglie Marita che era presente, no, tra l'altro oggi con la moglie Marita che era presente, e appunto gli avvocati questo l'hanno sottolineato anche come strategia processuale, e questa presenza di Marita sicuramente è stata diciamo così, rappresentata dalla difesa come un segnale che lei gli crede, insomma. Che lei gli crede, perché nelle intercettazioni telefoniche è proprio lei che lo mette alle strette e gli chiede con insistenza di ricordare cosa fece quel 26 novembre tragico. Quando fu uccisa, sembra davvero davvero sembra un pubblico ministero più che una moglie. E Bossetti anche a lei nelle intercettazioni ribadisce più volte di essere innocente, di non ricordare affatto cosa fece quel giorno, ma che sicuramente sarà stato un giorno come gli altri. Perché dicono che lui è anche abitudinario, no? Sempre casa, lavoro, famiglia. Senti, ma doveva esserci anche sua madre, Esther Arzuffi, però per una indisposizione non era presente, poi oggi aveva chiesto di essere presente tra il pubblico e poi non c'era. Non è stato fatto nessun accenno invece a queste lettere considerate a sfondo scabroso, sessuale, che Bossetti avrebbe scritto a una detenuta lì nel carcere. Sì, allora è stato fatto un accenno, l'avvocato Salvagni le ha definite come un colpo basso da parte della procura, l'ha definito come uno dei punti più bassi del processo, perché appunto secondo la difesa gli inquirenti avrebbero scavato nel torbido perché insicuri e insoddisfatti delle prove raccolte contro l'imputato. Loro parlano di mezzo DNA nei confronti di Bossetti e quindi sostengono che l'accusa sia andata a cercare altrove quello che in realtà non c'è, trovando appunto anche queste lettere che attengono alla sfera intima, personale, la cui pubblicazione di fatto ha creato molta sofferenza, dicono loro, all'imputato. Senti, sempre sono ritornate naturalmente sul DNA, che è considerata dall'accusa la prova regina, no? Dicendo che loro non hanno potuto interloquire sul lavoro fatto da altri specialisti, e quindi dice: non può esserci chiesto, ha detto Salvagni oggi, un atto di fede, e ha detto ai giudici: non avete giurato sul libro di biologia ma sulla Costituzione. Sì, esatto, la tesi difensiva è questa. Va detto che non hanno ancora affrontato il capitolo DNA in maniera diffusa, hanno così fatto qualche accenno sorvolando, perché hanno deciso di tenere appunto il capitolo genetico, che è poi quello su cui si decide il processo, perché diciamocelo chiaramente che è così, l'hanno tenuto come ultima cartuccia prima di arrivare alle conclusioni, quindi ne parleranno nella prossima udienza, che è il 10 di giugno. Infatti, perché hai detto che ci vorrà ancora tempo per finire tutta la linea difensiva, e poi invece leggevo che forse il 1 luglio si potrebbe arrivare alla sentenza. Sì, ecco, no? La novità è arrivata proprio alla fine dell'udienza odierna. La presidente Antonella Bertoia ha dato il calendario: il 10 di giugno proseguirà quindi e concluderà la difesa. Nell'udienza invece del 17 di giugno ci saranno le eventuali repliche, ma sicuramente ci saranno del pubblico ministero e delle altre parti, e il 1 di luglio l'udienza in cui sostanzialmente la Corte si riunirà in Camera di Consiglio per emettere il verdetto. Ci vorrà tutta la giornata probabilmente. Beh, insomma, certo, non sarà una decisione facile. Grazie Vittorio Tonà dell'Eco di Bergamo, ci sentiamo allora alla prossima udienza. Grazie Vittorio, buon lavoro. Grazie. Grazie, Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, notizie in pochi secondi. Ve le ricordo, dopo aver letto questo messaggio di Paola da Firenze: abbiamo gli studenti più ignoranti d'Europa che fanno anche vacanze inutilmente lunghe, benvengano soluzioni che evitino assenze dalle lezioni. A proposito delle proposte alternative dei presidi per non far votare nelle scuole, per non far questo maxi ponte dal 2 al 7 giugno, anche se qualche ascoltatore, leggevo prima, diceva: perché intervengono adesso i presidi a pochi giorni dalle elezioni? Le notizie più importanti: Obama oggi a Hiroshima, a margine del G7, dialogo, dice, per un mondo senza armi nucleari, e poi l'abbraccio con un sopravvissuto della bomba nucleare del 1945. G7, al G7 al vertice, nel comunicato finale c'è scritto che le priorità sono la crescita e una risposta globale alla migrazione, e c'è anche una grossa preoccupazione per lo spettro della Brexit. Migranti, nuovo naufragio, oltre 10 corpi recuperati, e poi la piccola Favour, la bambina di 9 mesi che è arrivata senza mamma perché morta nel naufragio a Palermo, in un centro per neonati che commuove il mondo. E poi scontro sulla prescrizione all'interno della maggioranza. Europa 24 notte. L'Italia produce insieme a Francia, Spagna e Germania il 54% del valore aggiunto del settore agricolo europeo ed è tra i maggiori beneficiari del Fondo strutturale di garanzia, che finanzia gli aiuti diretti agli agricoltori. Ma chi paga per la PAC? Che differenza c'è tra aiuti diretti e Fondo per lo sviluppo rurale? Ne abbiamo parlato con Paolo De Castro della Commissione europea dell'agricoltura e con Giuseppe Blasi del Ministero delle Politiche Agricole. Con la nuova PAC 2014-2020, l'Europa stanzia ogni anno per l'agricoltura 53 miliardi di euro da distribuire tra i 28 Stati membri. Il settore agricolo è l'unico dove le spese europee sostituiscono quasi per intero quelle nazionali. La PAC, infatti, rappresenta meno dell'1% del totale della spesa pubblica dei paesi dell'Unione. Un quarto dei finanziamenti, quelli destinati allo sviluppo rurale, prevedono però una partecipazione degli Stati. Paolo De Castro, membro della Commissione europea all'agricoltura. Complessivamente i fondi della PAC sono fondi che vengono dal bilancio europeo, quindi dai contributi che i singoli stati pagano, appunto quell'1% del prodotto interno lordo che grosso modo ciascun stato membro paga per rimpinguare le casse comunitarie. Poi le casse comunitarie servono a fare politica. Per alcuni programmi, per esempio il piano di sviluppo rurale, queste risorse sono cofinanziate, cioè fatto una volta l'entità del bilancio dello sviluppo rurale, una parte viene data allo Stato membro, 50%, 30%, 25%, una percentuale differenziata a seconda dei paesi, a seconda delle condizioni dei vari paesi. Abbiamo reso flessibile la quota di partecipazione perché alcuni paesi in difficoltà economica, mantenendo la quota al 50%, rischiavano di non utilizzare neanche la quota europea, non avendo il 50% nazionale, e quindi abbiamo flessibilizzato, diciamo, quella quota di partecipazione. Però diciamo che gli aiuti diretti sono 100% a carico dell'Unione Europea, lo sviluppo rurale è parte a carico dell'Unione, parte a carico dello Stato membro. La flessibilità non riguarda solo la distribuzione dei fondi tra gli Stati, ma anche l'impegno economico delle aziende che partecipano ai progetti di sviluppo rurale, spiega Giuseppe Blasi, capo dipartimento delle politiche europee al Ministero dell'Agricoltura. Il sostegno agli investimenti prevede un contributo in conto capitale che varia tra il 40 e il 50% rispetto alla spesa ammessa, in dipendenza del soggetto, se è giovane o se non è giovane, oppure dell'area più o meno svantaggiata in cui si trova l'azienda che chiede l'investimento, mentre ci sono tutta una serie di altre possibilità dove non è richiesto il contributo del privato, ma questo sono strettamente dipendenti al valore pubblico dell'investimento e al valore che meno privato, nel senso, se io realizzo un investimento che mi garantisce delle funzioni pubbliche, a quel punto il contributo è superiore e la partecipazione del privato è inferiore. Penso ad esempio a investimenti finalizzati a realizzare attività educative, sociali e via dicendo, dove non c'è solo un vantaggio per l'impresa che lo realizza, ma perché si forniscono servizi a terzi o comunque a una pluralità di soggetti. Anche se cofinanziato, il Fondo per lo Sviluppo Rurale è un'importante fonte di liquidità per il settore agricolo italiano. Infatti, dai dati del Ministero delle Politiche Agricole, le risorse messe a disposizione dell'Italia con la PAC 2007-2013 sono state usate al 99%, utilizzando quasi per intero i 9 miliardi di euro stanziati. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. E spazio adesso al nostro portatore sano di sole, Paolo Corazzon di Trebi Meteo, caro Paolo. Buonasera, buonasera Roberta. Allora guarda, si parte bene perché domani è estate in tutta Italia, da nord a sud. Pensa al sud, superiamo i 30 gradi, punte vicine ai 35. Domenica però si volta pagina al nord, arrivano dei temporali, temperature in diminuzione, mentre al centro-sud ancora sarà una bella giornata, ma la cosa più importante, sembra che il ponte del 2 giugno sia bello più o meno in tutta Italia, e lì ce la godremo alla grande. Meno male, ci ha dato abbastanza buone notizie Paolo Corazzone, avevi una grande responsabilità come sempre, buon tempo a te comunque sia. Ciao Paolo. Ciao, buon tempo a tutti. E noi ci sentiamo alle 22.